Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Forza, oggi siamo forza, natalizi, dai, che forza. Tra poco ci siamo anche per, la nostra recita, insomma, il 15 di dicembre alla Sala Collina, qui alla sede di Radio 24, faremo la recita di Natale. Sì. Tra l'altro ho trovato un bellissimo sito, Kappa, in cui insegnano ai bambini a disegnare Babbo Natale. Vogliamo provare anche per radio? Allora, bambini, siete pronti? I disegni per radio? Disegnate la faccia. Le foto per radio, quelle che fa caccia. Vabbè, così infatti. Allora, bambini, siete pronti? Disegnate la faccia e le linee del naso e degli occhi. Ma come? Cioè, non lo dici, aspetta, sei già lì che protesti. Allora, ma peggio io... di un bambino vero. No, io voglio allora, poi bisogna disegnare le orecchie di Babbo Natale e delineare gli occhi. Gli occhi. Poi disegnare bene gli occhi e la bocca, poi la barba, indispensabile quando si parla di Babbo Natale. Sì, ma non serve a niente, cioè, devi farlo, se tu spieghi come aspetta, fa... no? Allora, sì, allora, si continuano a disegnare gli occhi e altri dettagli della barba. Il naso. E delle mani. Vabbè. Aspetta, il naso era già all'inizio. Allora, poi è giunto il momento di disegnare il costume di Babbo Natale. Allora, disegnare la cintura. Vabbè, ma tu devi dire come si disegna la cintura, è il punto, hai capito? Dovete fare delle... Allora, è giunto il momento di finire il disegno togliendo i segni che non servono più e colorando come si deve il nostro Babbo Natale. Ecco, contenti bambini, avete visto che bello? Drago, ma va... Sentite un po', visto che a me l'idea di fare la stella dell'albero di Natale non è che mi entusiasma, no? Come? La stella? Tutti ti chiamano stella? No, là in cima non vorrei starci, quindi avrei pensato a qualcosa di alternativo. Vabbè, adesso ti stai allargando un po' troppo, sei sempre un bambino, come tale dovresti occuparti di altre cose. E l'allestimento dello spettacolo non è una cosa che riguarda te personalmente, riguarda Massimo, me, K. Ancora? Allora, abbiamo appurato che sarò l'attrazione principale della serata, no? Sì? Appurato. Allora, visto che abbiamo appurato... Il burocratese. Conviene a voi tenermi in considerazione. Cioè, se vi interessa mettere su in piedi qualcosa di dignitoso. Sei pesante, sei noioso. Comunque, vabbè, i suggerimenti, dai. Sono due. No, il primo è la mia entrata in scena, no? Sì. Deve essere importante. Sì. Tipo quella che fa B.B. King. Ah, sapete chi è B.B. King? Ma certo. Cosa ne sai tu che sei un bambino? Un bluesman. Allora, voi vecchio, sarete sul palco. Centenario. Che forse, tra l'altro, pensavo che anche B.B. King, come tanti, fosse già... È morto. No, è vivo, Okay. Comunque, voi salite sul palco, no? Prima di me, fate le vostre chiacchiere, introduzione, e poi cominciate a far capire al pubblico che sta per succedere qualcosa di eclatante. Che no? Sta arrivando che poi sarebbe la mia entrata. Sì, e magari vorresti anche un'introduzione musicale con tanto di intro, tutto quanto. Capa, se tu potessi comporre un brano ad hoc. Ad hoc. Una specie di sigla per la mia entrata, no? Sì. No, qualcosa di potente, increscendo, entusiasmante. Guarda, al massimo, bambino Alberto, mettiamo una delle tue canzoncine, quelle con la tua vocetta stridula. Uè, che stridula! Stridula, dai. Sì. Da bambino, da picchino d'oro. Vabbè, adesso dai, ti stai montando un po' la testa, secondo me non c'è nemmeno il motivo, K. Questo qui dobbiamo dargli una calmata, perché avere degli amici su Facebook non è che sia esattamente come avere degli amici nella vita reale e nemmeno avere dei fan che ti pagano. C'è l'invidia. Vabbè. Comunque, lasciatemi finire, vai. Finisci veloce, ma finisci. L'altro momento topico. Sarà l'apertura dei regali, ma perché il pubblico mi porterà un sacco di regali, ne riceverò tantissimi, quindi ci vorrà un momento topico ad hoc da studiare, sì, a piacere, che dura quanto? A piacere dipende dal numero di regali. Vedi, no? Non saranno mica tanti regali, uno cada uno, cada una persona, porta un regalo. Se invece è un regalo solo ti faccio basta, è finito. Regali ce ne saranno tanti, ma come fai a saperlo? Allora, che ce ne saranno gli amici sono tanti, ho cominciato a pubblicare lista su Facebook, prime due liste in ordine, prima quella degli alimentari e poi giocattoli, abbiamo visto. Ho messo delle robe che... Tipo, non so, da mangiare. Da mangiare un Mars. Mars. Figa pinguì. 24 ostriche. Una tartare. Un set di 24 ostriche. Ma come una tartare? Una tartare. Tempo 6 ore la tartare è morta anche lei. Come dice, vuoi portare, non le fa, poi esci di casa. All'ultimo momento, no? Sì, allora, poi voglio un pollo ripieno di quaglie, ripieno di pancetta. Sì. Poi voglio stimolare. Siccome ho visto che su Facebook sono tanti amici appassionati di cucina, sì. Farò sto pollo ripieno di quaglie, ripieno di pancetta, quello mi entusiasmerebbe. Sì. Qualche altra, non so, per dessert? Vabbè, dessert è tartufo d'alba. Ma come? Non è un dessert. Però vabbè, dai. Allora, tartufo dessert è quello delle pizzerie, il gelato. Vabbè. Ma no, tartufo quello che sta sotto terra. Quello lì. Non è roba da bambino, ma cos'è i tartufi? Bravo, Tito, giù. I bambini non mangiano i tartufi. Però vabbè, dai, il giocattolo invece. Ha giocato. Ha giocato. Subuteo. Subuteo, eh. Pugibu. Il? Un pugibu. Un pugibol. Punching ball. Punching ball. Pugibol. Pungibal. Una bustina di scimmie d'acqua. Sì. Una mini moto truccata e una tarantola radiocomandata. Ma saranno mica dei giocattoli veri, la tarantola raccomandata. No, la ci sono davvero. Raccomandata da chi? Allora, voi andate in qualsiasi negozio di giocattoli aggiornato, di la tarantola radiocomandata. Vabbè, però senti, tarantola. Scusa un attimo, tutto per te, Gildo niente? Gildo, io chiederei anche per lui, ma non riesco a fargli dire cosa vuole. Come? Gildo. Si è deciso no, ti regalo. Dai, ma non chiedi, è inutile che chiedi, non c'è nessuno, convinciti di sta cosa. Smettila, quando ti vuoi fare, Gildo, vieni fuori, che se lo puoi vi. Gildo! Ma non esiste nessun Gildo, la vuoi smettere? È anche uno spettacolo a un certo punto raccapricciante vederti parlare da solo. Oh, ma se vi dico che era qui! Sì, va bene. Vabbè, allora adesso lo cerco. Quando lo trovo ve lo porto qua per orecchio. Anche no, grazie. Vabbè, allora ciao bambino Alberto, vabbè, ciao. Sempre ciao. No. Beh, poi dopo Gildo. È limite una racchetta da ping pong. E ora bambini, tutti a casa. Le automobili, ecco, le automobili sono proprio una cosa che mi piace veramente. Allora sarai contento di startene qui impalato a guardarle passare, guarda quante. No, perché non hai capito, non è che mi piacciono davvero, cioè ci sono quelli che passano la domenica ai concessionari, no? Ci sono pieni. Lo so, perché sì. Siamo aperti anche sabato e domenica. Infatti, ma tu sei mica uno di quelli. Non no? sono uno di quelli, meno capito? Male. Perché meno io male. Non posso permettermi la macchina che mi piace, quindi mi limito a immaginarle e dire se dovessi comprare una macchina quale comprerei? Se dovessi, questo è il tuo gioco. Il gioco è semplicissimo, sì, cioè immaginiamo che entro una settimana devo cambiare macchina e quindi devo trovarne una che fa per me. Rapporto qualità-prezzo, dimensioni, baule, i litri di capienza, estetica, consumi. Quindi tu per una settimana stai lì a immaginare, ma se mi prendo la Yaris... Cioè mi chiudo in un rapporto esclusivo e compulsivo con tutta l'informazione sulle macchine, internet, le recensioni, capito? Quello come facevi una volta con le ore, Iacula, Magella. Cosa stai dicendo? Le ore. Ma le ore Virginia Woolf. Ma sì, vabbè, adesso le ore ti fa venire in mente il film su libro, Virginia Woolf e non il giornale porno. Ma dai. Ma c'entra il porno adesso? Stiamo parlando di automobili. Vabbè, stiamo parlando anche di Virginia Woolf allora. Vabbè. Tito! Che finisce sotto le mani! Vieni, dai! E il porno poi non c'entra non c'entra tanto con Virginia Woolf. No, forse no. Vabbè, comunque allora ho capito che giochi con quattro ruote tutte queste pubblicazioni qui e ti immagini la macchina da comprare, però una volta che hai deciso, in pratica il gioco è finito e quindi il corpo macchina a disposizione di un acquirente cambia di mese in mese. Ma vabbè, ma mica tanto. Sì, quindi a ogni quattro ruote, automotori, non facciamo pubblicità sul volante, ricominciano i dubbi, escono nuovi modelli. Altri vengono messi fuori catalogo. Di mese in mese. C'è la versione speciale del modello classico. C'è il nuovo colore. C'è la personalizzazione. Sì, però ho capito. Un mondo fantastico. Ho capito, ma non capirò mai la mania per le auto. Ma si vede dalla macchina che guidi. Vabbè, la mia macchina è romena come una badante ed è anche affidabile come una badante romena. Cioè, non si rompe mai. No, è sempre rotta. Infatti, ho investito una badante romena. Ho spaccato due gambe. Ma poverina. Quindi io sono. Due gambe e una gamba, ho detto. Infatti, era romena e aveva tre gambe. Questo è molto divertente. No, però la colpa è mia che vado sempre a sbattere, quindi non è la macchina. Appunto, tu faresti meglio a smettere di guidare tu cour. Ma infatti non guido una tu cour, scusi, io guido una badante romena. Ops, rettifico, una macchina romena affidabile come una badante. No, perché dove te ne vai? Per le mani, dai, sono robe serie. Non guido la tu cour. Prendi in giro tutto. Le macchine, no, cioè le macchine sono una cosa seria. È serio. È una cosa seria. Cosa seria. Ma cosa? Le macchine. Le macchine. Auto, la mia auto blu. Vabbè, l'auto blu. Io la guido sempre. La fai guidare, forse. Ma la paghi tu. Ahimè, sì. La mia fuori serie. Chiedo asilo e tradi24.it. No.